questa non è un'idea, ma è stato uno dei miei primi reportage che ho realizzato nel 2015, una settimana dopo che è accaduto il fatto che tutti noi conosciamo, ovvero del blocco da parte del governo francese dei migranti a Ventimiglia, dove è stato organizzato da parte dei migranti e da gruppi autonomi, sia italiani che francesi, un presidio permanente che è durato poi fino a settembre-ottobre da parte dei migranti che volevano semplicemente passare dal confine italiano e passare quello francese. Il reportage è il racconto di un particolare luogo di quella zona che è Ventimiglia, ovvero un passaggio di montagna che passa sopra le due dogane. Questo passaggio me l'ha fatto conoscere questo Enzo Barnabà, che sarà appunto, oltre che il soggetto della mostra, sarà anche presente il venerdì 25 maggio per raccontare, diciamo, sia quello che è successo a Ventimiglia nel 2015, sia quello che è continuato a succedere dal 2015 fino ai giorni nostri, perché Ventimiglia comunque è sempre stato, poi dal 2015 in poi ancora di più, un luogo di transito per i migranti e che è sempre stata una delle vie che ha portato, diciamo, i migranti fuori dall'Italia. Il racconto di questo passaggio, denominato il passo della morte, è questo passaggio che ha un valore estremamente importante dal punto di vista storico anche per noi, perché fu un passaggio che venne realizzato durante la Seconda Guerra Mondiale da coloro, ebrei e partigiani, che volevano passare dall'altra parte dal confine francese, e anche lì si erano ritrovati muri chiusi. Questo muro di filo spinato che passa tutto il crinale fino ad arrivare alla costa, al mare, è una rete metallica, non mi ricordo adesso esattamente la lunghezza, ed è diventato, diciamo, un passaggio di salvezza non solo per i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per i migranti, in questo caso dal 2015 in poi. E quali sono gli aspetti, diciamo, inediti che hai potuto osservare, quelli che non sono arrivati attraverso i media in Italia o comunque in generale nel mondo? C'è da dire che in verità questo passaggio è stato raccontato da diversi media. Lo stesso programma Gazebo ha raccontato attraverso un piccolo documentario, e sempre grazie a Enzo. Diciamo che il punto chiave della questione è proprio il personaggio di Enzo, che volontariamente o involontariamente, per un fattore storico, lui continua a giustificare queste sue azioni attraverso appunto il valore storico che questo passaggio ha. In verità aiuta anche in qualche modo o porta a salvaguardia del passaggio, ma anche, diciamo, permette questo passaggio a chiunque volesse fare questa passeggiata, diciamo, quindi può essere vista anche sia da un livello turistico che da un livello in verità più profondo, che è quello che conosciamo tutti. Dal punto di vista mediatico è stato sì raccontato, però l'attenzione, come al solito, si è sempre incentrata molto di più su il confine bloccato e sui migranti bloccati, e non su tutto quello che c'è intorno a una condizione del genere, a tutte le persone che in qualche modo aiutano tutte le volte, quando è possibile, queste condizioni che è chiaro alla luce del sole che sono una chiara negazione dei diritti umani. E hai potuto raccogliere delle testimonianze dirette dai migranti che erano lì a presidiare? Beh, sono rimasto 10 giorni e sicuramente sì, ho avuto modo di conoscere direttamente molti ragazzi, dove tuttora rimango stupito dell'età, perché si parla di ragazzi che erano in viaggio dal Centro Africa e dal Medio Oriente da 2 anni, e quando li ho conosciuti a Ventimiglia avevano 16-17 anni. Quindi immaginarsi di ragazzi che partono da soli all'età di 14 anni per attraversare deserti, per attraversare il mare, in condizioni che loro sono ben consapevoli a cosa stanno andando incontro. Quando ho avuto modo di conoscere molti ragazzi che erano al presidio giù a Ventimiglia, diciamo che la condizione è stata abbastanza impattante. Hai potuto mantenere dei contatti? Sai adesso che situazione c'è a Ventimiglia, o è, come detto prima, è una storia che è andata avanti senza sostanziali cambiamenti dal 2015? Purtroppo non ho mantenere dei contatti, perché le persone che ho conosciuto in qualche modo mi vedevano come un giornalista che sì, si era fermato per tanto tempo e che quindi hanno avuto modo di conoscere, ma la condizione che noi non capiamo quando abbiamo a che fare con situazioni del genere è che comunque abbiamo a che fare con delle persone che conoscono tanta gente, sono sempre in viaggio e ogni contatto, ogni situazione, ogni elemento che si aggiunge, diciamo, alla loro storia può essere l'elemento che la storia gliela fa finire. Una soffiata, un momento, una persona che in qualche modo non è in buona fede, la mia categoria stessa in qualche modo in alcune situazioni non giova all'aiuto che in qualche modo si possono dare, quindi diciamo mantengono sempre un certo livello di riservatezza e lì capisco anche. Ho continuato a mantenere i contatti con Enzo Barnabà, che tuttora mi tiene aggiornato, diciamo, sulla condizione di Ventimiglia, perché ripeto è una situazione molto di passaggio, quindi quando sono stato lì per 10 giorni non ho mai visto le stesse persone per più di 3-4 giorni, perché nonostante il presidio poi queste persone cercavano altri modi, altre situazioni per andarsene, oppure accettavano il fatto di essere rinchiusi in centri di accoglienza o in qualche modo trovavano altre vie per passare. Una delle vie è appunto quella che vado a raccontare nella mostra di venerdì.